19.30, buonasera al giornale di Popolare Network. Genova, Berlusconi ha messo il timbro politico sulle violenze di polizia e carabinieri. Il capo del governo ringrazia gli agenti e accusa il Genova Social Forum di aver coperto i gruppi di Black Bloc. Berlusconi mente, dice Agnoletto, che chiede manifestazioni in tutta Italia per martedì in difesa della democrazia. Assemblea a Fiume con testimonianze drammatiche in corso a Genova. Mostrato un video sulle complicità tra forze di sicurezza e provocatori. Spontaneamente già in piazza, adesso migliaia di persone, il corteo più grande a Bologna, presidi a Milano e a Brescia. Genova si chiude, chiude il G8, chiude il forum alternativo, chiude la zona rossa. Alla città restano i danni e le ferite delle violenze di questi giorni. Per i danni Berlusconi ha già promesso soldi, per le violenze ha accusato il Genova Social Forum, ha espresso solidarietà alle forze dell'ordine, ha dato la copertura politica a quanto successo stanotte. Dentro il Genova Social Forum c'erano i violenti. Berlusconi dice il falso, ha replicato oggi Agnoletto. Il Genova Social Forum, martoriato da 2 giorni di botte e da una notte da incubo, ha tenuto oggi una conferenza stampa. Antonella Mascali. Un minuto di silenzio per ricordare Carlo, il ragazzo ucciso da un carabiniere. Vittorio Agnoletto non ha dubbi, quelli che ha definito massacri della notte scorsa e dei giorni precedenti sono stati voluti da un governo che vuole cancellare un movimento di massa e pacifico e che vuole instaurare di fatto uno stato di polizia. Ecco perché, ha spiegato Agnoletto, facciamo appello a tutte le associazioni democratiche perché organizzino martedì prossimo manifestazioni in tutta Italia. Lacrime quando uno dei medici del GSF, visibilmente scosso, racconta di violenze indiscriminate delle forze di polizia. La copia di una foto fa il giro dell'assemblea, si vedono 2 carabinieri in divisa con il casco uscire dalla caserma di Alvaro, Genova, con loro anche 4 uomini con il fazzoletto in volto alla maniera dei Black Bloc. E così come sembra un infiltrato, l'uomo mascherato, ripreso dal regista Davide Ferrario. Ho fatto finta di filmare da un'altra parte, sono tornato un po' lì perché mi avevano incuriosito questi 2 personaggi che si erano avvicinati a fortuna della polizia, che descriverei come degli ultra da stadio, nel senso che erano con il viso coperto, uno aveva anche degli occhiali da sole, l'altro un bavaglio, erano assolutamente vestiti da civili, senza nemmeno il casco blu che i poliziotti che sono in abiti borghese peraltro portano, ed erano chiaramente poliziotti perché parlavano con gli altri del furgone. Pareva che il più grosso dei due avesse anzi una funzione di coordinamento perché dava indicazioni agli altri. Un'altra cosa curiosa che ho visto è che quando si sono allontanati, uno dei tanti motorini con su 2 dei ragazzi si fermano accanto all'uomo mascherato, chiedono delle cose, lui alza il braccio e gli indica di andare da una parte e quelli ripartono. Accuse al Genova Social Forum, accuse al precedente governo Amato. Berlusconi se l'è presa con tutti e ha cercato un'improbabile assoluzione per quanto è successo negli ultimi 3 giorni. In uno sconcertante spettacolo, durante la conferenza stampa di questa mattina, il capo del governo ha esordito dicendo: è un peccato che il messaggio arrivato all'opinione pubblica qui da Genova sia stato soprattutto la violenza. Una festa che è stata rovinata. Un morto, centinaia di feriti e decine di fermati, di chiunque sia la responsabilità, sembrano non riguardare il Presidente del Consiglio. E così si spiega l'attacco di Berlusconi al Genova. Il macello è una perquisizione. Il sangue che nascondeva i volti dei feriti ieri era rappreso di contusioni e ferite pregresse. Strane verità, quelle che racconta la Questura, che mostra alla stampa il supposto arsenale per il quale 92 giovani, alcuni minorenni, sono stati arrestati, 61 feriti, alcuni in maniera grave. La polizia sostiene che il materiale ritrovato collega i giovani al Black Bloc, scatenato e mai fermato nei giorni di manifestazione. Viene esibito l'arsenale, assorbenti, materiale per suturare, cerotti, coltellini svizzeri, caschi. Genova chiama e Bologna risponde. Da alcuni giorni assemblee spontanee pubbliche in Piazza Maggiore davanti a sacrare caduti partigiani della Seconda Guerra Mondiale. In questo momento grande corteo imponente di 4.000 persone, forse più, slogan sono più o meno gli stessi sentiti a Genova: Genova libera, assassini, assassini e dimissioni, naturalmente rivolto alle... Sono scappati via da Genova tutti i leader, i segni della dittatura della città cominciano ad essere tolti, alla storia è stata consegnata una dichiarazione finale da cui si desume che chi è in grado di indicare le priorità oggi nell'Occidente ricco sono gli Stati Uniti. Infatti se gli europei dicono che Kyoto va approvata e la Casa Bianca non si smuove dal suo no categorico, nella dichiarazione finale ci si scrive: al momento non siamo d'accordo sulla ratifica di Kyoto. E poi i programmi di riduzione della povertà, passa la linea del liberismo compassionevole dell'era Bush. Ai poveri ci vogliono aiuti e un ruolo più forte delle multinazionali. Ma il vero punto di oggi a Genova è l'incontro tra Bush e Putin. I due decidono di andare. Erano spuntati di notte e se ne vanno di giorno in lunghissime file di tir. I container stanno lasciando Genova. Per 3 giorni sono serviti a blindarla come fossimo in guerra. Il G8 riconsegna la città agli abitanti, più ammaccata, più sporca di come l'ha trovata, ma almeno la morsa si è allargata. Restano sul lungomare 2 carcasse di auto bruciate, i segni del fuoco sull'asfalto, le tracce della fuga precipitosa dei manifestanti caricati dagli agenti. Restano le vetrine spaccate dai neri nell'indifferenza della polizia. Restano gruppetti di ragazzi che si raccontano. Il cittadino antiglobalizzazione non dice soltanto no. E questo è il senso di una settimana di dibattiti organizzati al Public Forum di Punta Bagno. Si fa strada anche una nuova consapevolezza, un nuovo orgoglio, alimentati dai 300.000 che tra lacrimogeni e manganelli hanno sfilato ieri. Sono emersi progetti, proposte, dati. Le proposte sono quelle di una moratoria sull'estrazione del petrolio, di una localizzazione dell'economia in via di sviluppo, dei piani per limitare l'epidemia AIDS in Africa. Non c'è opposizione a regole globali, purché siano democratiche e non oligarchiche. E soprattutto, per il no global, ci sono diritti inalienabili, quelli alla salute e all'educazione, che non possono diventare merci, che non sono servizi ma appunto diritti. C'è stato tutto questo a Genova, c'è stato soprattutto un movimento che, oltre ai partiti, comincia a fare politica e non più soltanto etica. Un movimento e delle idee che passano le gabbie di ferro erette a Genova, le frontiere, che non possono essere sequestrati da irruzioni e perquisizioni della polizia. Linea allo studio. Con la carrettera!